sé. Oh, è la parola del morto. È la parola del morto, del morto. Se non vi piacciamo, non ci piacete. Non vi piacciamo, non ci piacete. Non vi piacciamo, non ci piacete. Non vi piacciamo, non ci piacete. L'hai capito? Oh, prendi questo. Punto primo, è un suicidio bambino. Dopo anni guardi intorno e dici: cazzo, dove vivo? Vuoi vergogna? Ne avrai a palate. Manovre scontate per mano di menti bacate. Com'è che dico cogli l'attimo, ma l'attimo lo coglie chi è il coltello dalla parte del manico. E se non piaci sei fuori, ma mai fuori. Quanto televisivi puliti in pubblico e poi vietati ai minori. Dicono: pensa al futuro, lavoro sicuro. Studio, mi bocciano perché non sto simpatico a nessuno. La pretesa è che qualcuno chi il capo, stronza, non c'hai tatto. Ne risollevo tutti i morti che ti ho sotterrato. Ancora poco e scoppio, ognuno pensa al conto proprio. Mondo cane è il nome che ti appioppo. E poi mi vengono a informare che la borsa s'alza. Io non ho tempo di pensare all'alta finanza. Scusa, tu mandami dineros. Qua siamo incasinati perché ognuno è col suo sclero. Tirami scemo, perché alla fine è molto simile al mio credo. E quello, e da lì non si va, fotti in pieno. Contro versi, contro terzi. Sì, siamo i più grezzi e controbilanciamo avversi. Non avrete mai la nostra pelle. Picchia quanto vuoi, la mia crew non ci scende. Contro versi, contro terzi. Sì, siamo i più grezzi e controbilanciamo avversi. Non avrete mai la nostra pelle. Picchia quanto vuoi, la mia crew non ci scende. Un secondo, aiutati perché tanto Dio non t'aiuta. Non scordare il fondo e fai pagare la fiducia. Lei che non ne ha grammo e non ha taglio. La dai tutto, fai la cosa giusta e fai aumentare la valuta. Non sbaglio quando dico diffida dalle amanti che sono amanti. Il guaio è che provano a ammaliarmi in bagno quelle che amano solo il Signore. Sì, ma quello che paga i carati dello zircone. Io che non posso permettermi certi lussi, frequento con chi beve la vodka dei certi usi. E ho capito che anche a pezzi devo stare sempre lucido in tiro. Se no tra donne caramba cambia il soggetto che attiro. Ma io non voglio grane, voglio grana. Ma il cosmo capisce male. Ogni tre settimane un altro dice che devo pagarla cara. E si intuisce che chi ha fame di potere prende il contrario di ciò che sbrana. Forse devi puntare in basso per andare in alto. Come in un buon salto così ti elevi. Ma se qui alzi lo sguardo per guardare in basso, forse devi solo guardare avanti e tenere il passo. Contro versi, contro terzi. Sì, siamo i più grezzi e controbilanciamo avversi. Non avrete mai la nostra pelle. Picchia quanto vuoi, la mia crew non ci scende. Contro versi, contro terzi. Sì, siamo i più grezzi e controbilanciamo avversi. Non avrete mai la nostra pelle. Picchia quanto vuoi, la mia crew non ci scende. Oh, terzo scomodo, levami di mezzo, ti ingrandisco, questo è incomodo. Cane morto qui nel finimondo, di sotterra il mio corpo recita preghiera alla rovescia e ti rispondo. C'è qualcheduno che ancora non afferra. Parli della tua guerra, ma cazzo cos'è quella? No, non è un ascia, non un ferro, ma una cazzo di bandiera con su scritto fanculo ogni controverso. Contro scontro resto giù protesto, qua mi innesco, bomba pronta a partorire. Vuoi vedere le budella? Sii sincero, vuoi fuggire? Tanto santo sanno tutti quanti, non mi fanno, non mi puoi convertire. Sì, è la parola del morto, tazza voglia senca, giù con sfogo. Non distogliermi lo sguardo o ti metto tutto a fuoco. Provo arsenali e incastri, sputo crasti sopra l'indole dei falsi, lascio spasmi. Contro versi, sì siamo i più grezzi, birra in mano, radio a palle, devastiamo sti palazzi. Dal primo all'ultimo ti sveglio, ogni suddito rivolto, pure il pranzo sugli stronzi giù del pubblico. Contro versi, contro terzi. Sì siamo i più grezzi e controbilanciamo avversi. Non avrete mai la nostra pelle. Picchia quanto vuoi, la mia crew non ci scende. Contro versi, contro terzi. Sì siamo i più grezzi e controbilanciamo avversi. Non avrete mai la nostra pelle. Picchia quanto vuoi, la mia crew non ci scende.